l'uso politico della storia esiste da quando esiste la materia della storia, quindi è abbastanza normale che accada. Su questa specifica vicenda c'è la questione delle foibe dell'esodo, c'è un uso strumentale molto, molto brutale, diciamo, che viene fatto fin da, diciamo, dall'istituzione della giornata del ricordo, se non forse anche da prima, e che viene fatto esplicitamente, diciamo, soprattutto dalle forze di destra, dell'estrema destra, diciamo, quelle che fanno riferimento al fascismo, con l'obiettivo sostanzialmente di giustificarsi dei propri crimini e presentarsi come vittima. In questa mostra itinerante, questo treno, quali sono gli aspetti più problematici? È una mostra composta da una serie di vagoni su un treno storico, e in ogni sala, vagone, diciamo, viene mostrata, rappresentata uno degli slogan classici che girano intorno a questa vicenda, per cui l'italianità, cioè territori che sarebbero stati da sempre italiani, fin dall'antica Roma e poi Venezia, insomma tutta questa cavalcata di italianità in cui le altre identità presenti sul territorio vengono cancellate completamente. Poi c'è la violenza slava contro gli italiani, che non è contestualizzata nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, un contesto in cui la violenza l'abbiamo portata noi, perché l'Italia che invase la Jugoslavia, non il contrario, e naturalmente l'esodo presentato come conseguenza immediata di quella violenza, e quindi come pulizia etnica, espulsione della popolazione qui. Diciamo ricostruzioni sostanzialmente false o molto semplificate, diciamo, rispetto alla complessità di quel territorio e di quella storia. Ricostruzioni che però la destra continua a impugnare, e ora che sta prendendo il potere in diverse parti possono diventare egemoniche? Beh, ormai lo sono già da tempo in realtà egemoniche, nel senso che questo tipo di affermazioni, purtroppo, che sono state appunto ideate fin dall'inizio, fin dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, in realtà dall'estrema destra neofascista, sono diventate, diciamo, senso comune, perché di fatto si sono imposte nell'opinione pubblica attraverso una serie di strumenti, diciamo, di comunicazione storica, che naturalmente sono in parte, diciamo, strumenti classici istituzionali, cioè discorsi commemorativi, monumenti, eccetera. Faccio per un esempio tra tutti: su tutti i monumenti delle foibe c'è scritto "uccisi solo perché italiani", che è un'affermazione sbagliata, perché le motivazioni di quelle violenze sono sostanzialmente di tipo politico e militare, non di tipo nazionale. Ma naturalmente ci sono anche altri strumenti che sono ancora più pericolosi da un certo punto di vista, perché arrivano più a fondo e lasciano un segno più profondo. Penso ad esempio agli spettacoli teatrali, le graphic novel e i film realizzati tema. In 20 anni la RAI ha prodotto 3 film su questo argomento. Se pensiamo che non è mai stato prodotto in Italia nessun film sui crimini commessi dal regime fascista fuori dai nostri confini, tra cui ovviamente in Jugoslavia, direi che è abbastanza clamoroso. Dal dopoguerra ad oggi, le forze invece della resistenza, che stavano dall'altra parte, hanno qualche responsabilità nell'arrivare al punto di oggi, nel senso in questa distorsione storica? Ma sicuramente sì, nel senso che questo tipo di narrazione è stata naturalmente appunto ideata dalle forze neofasciste con un intento politico molto chiaro ed evidente, anche comprensibile dal loro punto di vista, diciamo. La cosa grave è che le forze antifasciste, comunque forze politiche non fasciste, che hanno dominato il Parlamento fino alle ultime elezioni, sostanzialmente sono state maggioritarie in Parlamento, sono in qualche modo cadute in questa trappola narrativa, e l'hanno ribadita e ripetuta costantemente, per cui questo ha di fatto favorito poi le forze invece che fanno riferimento a quel modello politico. Questo è molto, molto grave, si è rivelato molto grave, perché di fatto ovviamente le motivazioni per cui la destra neofascista ha raggiunto il potere sono tantissime, non è solo questa, ma sicuramente, diciamo, la sensazione che i fascisti in fondo non siano colpevoli di nulla nella storia, che il fascismo ha fatto solo cose buone, perché quelle cattive non ce l'hanno mai dette, e che addirittura i fascisti siano stati vittime delle foibe e difensori eroici del confine, tutto questo rende possibile a una forza neofascista raggiungere il potere.